e naturalmente Disorder dei Joy Division va ad annunciare l'omonimo spazio in onda da adesso sino alle ore 23 circa con Elettrodo ai controlli. 25 marzo 2020, il sito della radio è www.ondarossa.info anche per lo streaming. Per le comunicazioni mediante posta elettronica, ondarossa@ondarossa.info, domani sul sito della radio e sulla pagina Facebook Prove Tecniche di Trasmissione /Disorder comparirà naturalmente la registrazione di questa trasmissione odierna. Ricordo il radio abbonamento che verrà prorogato per un po'. Ieri il 24 maggio è stato il 43esimo compleanno di esistenza di Radio Onda Rossa, nata dunque nel lontano 1977, da allora senza pubblicità. Quindi le iniziative in questo momento non bastano e quindi ha bisogno di questo abbonamento. 30 euro per 1000 ascoltatori, si può andare sul banner situato sul sito e si può scegliere la modalità più adatta. Salutiamo in Sardegna Nicola Bocci, Stigmate e Maya. Dalla campagna, da Napoli, Gennaro D'Elena, che chiameremo praticamente subito in esistenza, come si suol dire. Marco Iacomini qui a Roma. Francesco Radius della Black Ash a Livorno, Simone Scalese di Audio Chaos, se non ricordo male dalla Calabria, da Cosenza, Giacomo qui a Roma, Daniel Bones Records, Cristiano Bocci della Sardegna, qui a Roma, Flavio Derbecante di Bipit, da Brescia Resia Rex. Il buon Gianluca Becuzzi qui da Roma. Antonio Zoviet, Omicidio, altro artista valente di area industrial dalla Toscana. Questa sera avremo ovviamente molto materiale italiano, anche qualche novità, ed è da una novità che cominciamo. Una realtà possiamo definire emergente, proveniente appunto dalla Campania. Si chiamano Eastern Lake, qui al loro secondo album, uscito da pochissimo da quanto ho capito, penso proprio quest'anno, ma da qualche mese, se non anche meno. Un album che si chiama Disto Dream, una azzeccatissima fusione tra elementi naturalmente dark wave, post-punk, ma con una robusta e ficcante componente elettronica che qui a Disorder fa sempre piacere ascoltare. Un album che esce per questa etichetta brasiliana, ultimamente abbastanza chiamata in causa, che è la Wave Records, che ha sotto contratto più di un progetto italiano. Ecco qua, il 2 maggio, vengo subito soddisfatto dal mio dubbio, quindi molto recente effettivamente. Saluto anche Franco Barletta, Enkil da Piemonte, Antonella qui a Roma. E cominciamo a fare la conoscenza con questo Disto Dream, probabilmente Disto Dream sogno distopico. Questo album si apre con una classica introduzione e poi ci sarà un'introduzione abbastanza riflessiva e intimista, seguita da Delicate Obscenity, che già ci porta nei climi più tipici di questo interessantissimo lavoro, Eastern Lake. E abbiamo iniziato con una novità qui a Disorder, una fresca novità proveniente dalla campagna, credo proprio da Napoli. Si chiamano Eastern Lake, secondo lavoro per loro, dal nome Disto Dream. Robusto gothic rock, ma come ripeto c'è una costante scansione elettronica che rende il tutto ancora più gustoso alle mie orecchie, quantomeno. Abbiamo la ottima voce di Gennaro D'Elena. La parte elettronica, la drum machine e i sintetizzatori di Dario Moroso. Pierluigi Michele Grauso alla chitarra. Carlo Landolfi fa vibrare il basso. Il tutto attraverso la Wave Record, questa label brasiliana decisamente emergente, che chiameremo in causa anche tra qualche minuto. Naturalmente Disto Dream lo andremo a conoscere ancora meglio nelle prossime settimane. Anche questa ulteriore testimonianza di una vitalità di questa scena, diciamo, gotica in senso ampio. Adesso arriviamo qui a Roma, qui ci spostiamo per un attimino verso sonorità invece più vicine alla Cold Wave, per un gruppo che abbiamo già apprezzato le scorse settimane, questi three plus dead, un trio appunto proveniente da Roma, che però come molti altri ha deciso di incidere in Svizzera con la Swiss Dark Knights. Questa è un'etichetta, diciamo, più nota rispetto alla Wave Label Records. E questa sera ci andiamo ad ascoltare Ghost Generator e una ottima cover di Kebab Traume, indimenticato brano dei Duff, del compianto Gabby Delgado, scomparso anche lui recentemente. E su questa cover dei Duff da parte dei Three Plus Dead vado anche a salutare Paolo Contucci all'ascolto e forse per la prima volta di Disorder qui a Radio Onda Rossa. Un abbraccio a lui. Anche loro, Three Plus Dead, trio romano, sono sicuramente da annoverare come le novità, tra le novità più interessanti per quanto riguarda questo ambito musicale. La bella voce era quella di Elisa Pambianchi, che si incarica anche di scrivere i testi. Roberto Ruggeri, chitarra, sintetizzatori e arrangiamenti, e il basso di Giuseppe Marino. Effettivamente l'attento Antonio Zoviet ha sottolineato in parte anche le somiglianze con i Lebanon Hanover, che qui conosciamo un po' tutti. E quindi queste settimane ci siamo un po' sollazzati con questo lavoro di esordio, che speriamo sia il primo di una lunga serie, e quindi aspettiamo chiaramente delle novità da questo progetto romano. ringrazio ovviamente Gennaro De Lena e lo stesso Antonio per, diciamo, le belle parole. Un saluto anche al, ormai una vecchia conoscenza qui di questi spazi, Ernesto Dark Phoenix e Giuliana. Allora, stiamo un po' citando elementi della Cold Wave, qui vengono anche citati Soft Moon, sicuramente presente in queste note, in queste atmosfere, e alziamo un po' il tiro per un progetto sempre più o meno somigliante a ciò, ma leggermente più effervescente e più elettronico. Anche questo l'esordio si chiama Enib e l'esordio si chiama Cat, e dietro questo pseudonimo si nasconde una vecchia conoscenza della scena gothic post-punk romana, sia Filippo Biagioni Gazzoli, o Gazzoli che dir si voglia, cantante degli Echoes of Silence, che tutti conosceranno, i loro splendidi quattro lavori. Ebbene, in questa occasione invece Filippo si muove da solo e sposta le sonorità su un campo leggermente più elettronico. Allora, da Cat ci ascoltiamo le prime due tracce, ossia No Way Out e Nervous.